Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, oggi in formato ridotto, andiamo in onda solamente fino alle 18. 349-238-6666 per i vostri sms, quello è anche il numero per contattarci su WhatsApp, per scriverci su WhatsApp se volete. Di cosa parleremo oggi? Torneremo sulla questione delle banche, sul decreto intervenuto il 23 di novembre che ha sostanzialmente salvato Banca Marche, la Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Chieti, per tornare sul tema che riguarda un po' più strettamente i risparmiatori che sono stati coinvolti da questa vicenda, ossia gli azionisti, ma soprattutto i titolari di obbligazioni subordinate. Il governo starebbe pensando ad un intervento che nel corso dell'ultima settimana si è ridotto, perché le prime indiscrezioni davano 180 milioni di euro, le ultime parlano di 100 milioni di euro, c'è un emendamento del Partito Democratico che parla di un pagamento che verrà fatto non tutto da parte dello Stato, ma si ipotizza un terzo da parte dello Stato e due terzi da parte delle altre banche, e appunto toccheremo questo tema, vedremo un po' dove si potrebbe andare a parare e che cosa si sta prospettando anche per chi ha venduto questi prodotti, perché anche questo è avvenuto senza chiarire sufficientemente ai clienti quali fossero i rischi, se ci sia stato un omesso controllo e anche, se volete, dall'altra parte il ruolo degli stessi risparmiatori, perché un po' di omesso controllo da parte loro, anche questo c'è stato. Parleremo anche di Venezuela, ci sono state le elezioni, il partito che era di Chavez, il chavismo, si è detto è finito, dopo 16 anni è stato sconfitto il partito di Maduro, ha vinto l'opposizione, tutto questo ha degli importanti elementi economici. Se considerate che i dati di oggi sul prezzo del petrolio indicano un nuovo calo nettissimo, siamo intorno ai 38 dollari al barile, e considerate quanto l'economia venezuelana dipende da questo, avrete la misura, insomma, di quello che sta succedendo. Considerate che il 98% delle esportazioni del Venezuela sono esattamente di greggio. Il break even, ossia il punto di pareggio per mantenere l'attuale budget che il Venezuela si è dato, è a 117 dollari al barile. Il tutto si innesta in una situazione piuttosto complessa per tutta l'area, perché c'è l'Argentina che ha appena cambiato faccia politicamente anche a causa della situazione economica, il Brasile che sta nettamente rallentando e c'è il presidente Dilma Rousseff che è notevolmente in difficoltà anche per delle inchieste che la riguardano e riguardano il tema della corruzione. Non toccheremo invece, perché gli effetti economici sono oggettivamente non particolarmente rilevanti, non toccheremo per oggi almeno il tema delle elezioni in Francia, pur importanti per l'Europa, pur importanti politicamente, ma appunto su questo non andremo. Come sono le borse oggi? Le borse sono a due facce, nel senso che va bene l'Europa nel suo complesso, con Parigi che guadagna lo 0,83%, Francoforte l'1,17%, va male Londra che cede lo 0,22% ed è negativa Milano che cede lo 0,12% sul FTSE MIB e lo 0,05% sul FTSE All-Share. Tutto questo, anche borse che andavano molto meglio a metà giornata, poi aperto Wall Street, aperto male con il Dow Jones giù di un punto percentuale e lo Standard & Poor's 500 altrettanto, e le borse evidentemente hanno reagito anche a questo. Pesa su tutto questo ovviamente, come si diceva, il prezzo del greggio. Vi ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms ed è anche il numero con il quale ci potete contattare su WhatsApp, sempre scrivendoci. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. passiamo come sempre dalle materie prime. Oro in calo dello 0,3% a 1082 dollari l'oncia. Abbiamo il greggio, come si diceva, che fa segnare un calo nettissimo. Il WTI, quello quotato a New York, con consegna a gennaio, cede il 4,3% a 38,2 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, sempre consegna a gennaio, meno 3,7% a 41,4 dollari al barile. Il Brent, quello quotato a Londra, il petrolio del Mar del Nord. Avremo tempo, già arrivano via SMS, via WhatsApp le domande: come mai non cala la pompa? In realtà qualche calo alla pompa c'è stato, forse non corrisponde a quanto effettivamente vediamo per quanto riguarda appunto il calo della materia prima. Le cose non sono necessariamente e direttamente collegate. I margini di riduzione sono oggettivamente ridotti dal fatto che la tassazione in Italia è molto elevata. Detto ciò, avremo modo di tornarci su questo tema, perché il petrolio così basso mi sa che ce lo teniamo per un po'. Allora, si diceva, l'economia internazionale ci consegna due notizie oggi, tutte e due arrivano dall'America Latina. Il Venezuela, dove l'opposizione anti-chavista ha vinto le elezioni legislative conquistando 99 dei 167 seggi dell'Assemblea Nazionale contro i 46 del partito chavista. Maduro ha ammesso la sconfitta. Ci arriveremo più avanti, come vi dicevo, sarà uno dei nostri temi di approfondimento. I dati sul punto di pareggio del prezzo del greggio ve l'abbiamo dati. Considerate che il Venezuela ha un'inflazione che viaggia intorno all'80%, la crisi economica è forte e conclamata. Comunque ci arriveremo tra un attimo. Si diceva del Brasile, sono ancora negative le proiezioni per l'economia brasiliana nel 2015. Secondo gli esperti ascoltati alla Banca Centrale, l'anno si chiuderà con un tasso di inflazione al 10,4% e una contrazione del PIL al 3,5%. Si tratterebbe del peggior risultato in 25 anni nel paese sudamericano, e sono negative anche le aspettative per il 2016. Ci si attende un calo del 2,3% del prodotto interno lordo, appunto, per l'economia brasiliana. Vale la pena segnalare il risultato francese, del quale vi abbiamo detto non è che ci siano effetti economici immediati. È una vittoria netta, come vi hanno raccontato anche i nostri colleghi di GR24, sfiora il 28% la Le Pen, il centrodestra, l'UMP al 27%, i socialisti al 23,3%, ci sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che dice l'Europa deve cambiare, se non cambia il suo corso, le istituzioni europee rischiano di diventare i migliori alleati di Marine Le Pen, di coloro che vogliono imitarla. Così Renzi, scrivendo su Facebook, chiede una nuova direzione all'Europa. Sarà pure una banalità, ma difficile dargli torto. Nel frattempo la Grecia ha approvato la legge di bilancio 2016, previsioni crescita zero nel 2015 e meno 0,7% del PIL nel 2016. Secondo Tsipras la crescita dovrebbe riprendere nella seconda metà, appunto, del 2016. E dati non particolarmente positivi anche dalla Germania, dove la produzione industriale cresce meno del previsto, aumenta dello 0,2% dopo il meno 1,1% di settembre. Le previsioni erano per un rialzo dello 0,8%. E oggi, a proposito di Germania, del cosiddetto modello tedesco, i massimi vertici del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, travolto anche in borsa da metà settembre dal Dieselgate, sono nell'Emirato Arabo del Qatar per incontrare i rappresentanti del fondo sovrano locale, il Qatar Investment Authority, soci al 17% circa del capitale di Volkswagen. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 in collaborazione con RDS, oggi a cura del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Rinnovi il tuo business con i servizi di Nuvola Store di Team Impresa Semplice. Con contatti Power e Vetrina Power dai più valore ai tuoi clienti e alla tua attività sul web. Info su nuvolastore.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. I massimi vertici della Volkswagen sono volati di gran corsa in Qatar, sono stati convocati dai dirigenti del fondo sovrano di quello stato, il Qatar Investment Authority, socio al 17% circa del capitale ordinario di Volkswagen, con addirittura due seggi in consiglio. Una normale visita di cortesia, dicono, al quartier generale di Wolfsburg, per consentire al nuovo management di farsi conoscere da uno degli azionisti più rilevanti, ma della delegazione però fanno parte anche Wolfgang Porsche e Hans Michael Pieck, in rappresentanza delle potenti famiglie che controllano il gruppo automobilistico, la qual cosa rende l'incontro assai più di una normale visita di cortesia. Gli influenti emiri vogliono sapere cosa accade dopo lo scandalo del Dieselgate e quanto sia sufficiente il prestito di 20 miliardi ottenuto dalla casa di Wolfsburg per tamponare i primi effetti dello scandalo, e soprattutto vogliono sapere quali siano le strategie per aumentare gli investimenti nelle auto ecologiche, soprattutto negli Stati Uniti. Per la stampa tedesca poi è nato un vero e proprio forcing culturale da parte degli investitori qatarini per modificare il sistema di governance del gruppo e per ridurre il più possibile il potere delle organizzazioni sindacali, oggi garantito dalla presenza di sindacalisti nel 50% dei posti nel comitato di sorveglianza, un organismo creato con il sistema della cosiddetta Mitbestimmung, vale a dire la codeterminazione degli indirizzi strategici dell'impresa. Un portavoce dell'azienda ha seccamente smentito le illazioni della stampa tedesca, ma certo l'offensiva araba colpisce al cuore il modello di gestione che per la Germania è un vanto fin dal dopoguerra. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ed eccoci al primo tema di giornata, le banche, ma prima una dovuta risposta a un paio di ascoltatori che dicono: ah, siete dei leccapiedi che date ragione a Renzi. Signori, qua allora il Presidente del Consiglio ha detto una banalità, che questi partiti come quello di Marine Le Pen o altri hanno successo esattamente perché l'Europa funziona male. Del resto, se siete, se votate per questi partiti, sapete benissimo che è uno dei motivi per i quali li votate, perché l'Europa funziona male. Renzi ha detto una banalità, abbiamo detto che è difficile dargli torto, ma non perché siamo dei leccapiedi del governo, ma perché è oggettivamente difficile dare torto ad una banalità, insomma. E l'Europa su tutto questo dovrebbe riflettere, il problema è che non lo fa, o lo fa non abbastanza. Ed eccoci, il governo starebbe lavorando, il governo, il Parlamento, un fondo di solidarietà per limitare le perdite di più che azionisti, immagino gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche, Cari Chieti, Cari Ferrara, Banca Marche, Popolare, Etruria, salvate un paio di settimane fa. Il conto per i risparmiatori di quasi 3 miliardi di euro, 700, quasi 800 valgono le obbligazioni subordinate, circa 2 miliardi il valore delle azioni, i risparmiatori coinvolti sono circa 130.000. Nicola Borzi di Plus, il settimanale del Sole 24 Ore dedicato al risparmio. Benvenuto Nicola. Buonasera Simone, buonasera agli ascoltatori. Allora, innanzitutto abbiamo le fonti del Partito Democratico che dicono che questo fondo, che in realtà inizialmente si era detto che dovesse avere una dotazione di 180 milioni, poi siamo passati a 100 milioni, sarà per un terzo pagato dallo Stato, per due terzi pagato dalle banche, questa l'idea. Questo vorrei capire da te Nicola, se ti sei fatto un'idea di per quale criterio si è mosso il governo, perché l'istinto sarebbe di dire: hai firmato e hai acquistato un'obbligazione subordinata sapendo o dovendo immaginare che la parola subordinata implicasse insomma qualche problema rispetto ad un'obbligazione ordinaria. Come mai il governo interviene? Qual è la ratio? il governo si muove sull'onda di un risentimento generale di queste decine, quasi centinaia di migliaia di risparmiatori, dovuto al fatto che sì, chi firma la sottoscrizione di un'obbligazione dovrebbe sapere esattamente di che cosa si tratta, ma nella maggior parte dei casi queste obbligazioni sono state emesse in un periodo in cui il bail-in era una parola ancora sconosciuta. È chiaro che i risparmiatori avrebbero dovuto avere consapevolezza di un rischio superiore, visto che il rendimento di questi titoli rispetto agli altri titoli anche delle stesse banche era superiore, ma molto spesso si trattava di persone che non avevano alcuna consapevolezza e nessuna preparazione neanche finanziaria. Dunque si è trattato, come dire, di un fulmine che, se non proprio a ciel sereno, visto che la stampa parlava e da settimane anche su Plus sin dal 7 novembre citavamo queste obbligazioni come particolarmente a rischio, e poi c'era anche la questione del commissariamento di questi istituti, si trattava di persone che in molti casi non avevano una percezione reale della situazione di decozione cosiddetta dal punto di vista giuridico delle banche. Quindi evidentemente queste persone non lo avevano chiaro. Dall'altra parte si può dire, insomma, il risparmiatore italiano è stato scottato un certo numero di volte in questi anni. Insomma, forse quando si mette mano a qualcosa di questo genere, soprattutto quando i rendimenti, ormai lo sappiamo tutti, abbiamo imparato tutti, no? Che quando i rendimenti sono più elevati il rischio è maggiore, evidentemente. Qua che meccanismi sono intervenuti? C'è stato omesso controllo da parte di chi doveva controllare? Allora, diciamo che la situazione di queste banche, come di altre banche che in realtà sono in una crisi sicuramente meno pesante di queste, è una situazione che è conosciuta alla Banca d'Italia da tempo, no? Infatti queste banche sono state commissariate nel corso degli anni per situazioni gestionali che ormai le avevano messe a rischio. La verità qual è? La verità è che durante l'ultimo periodo, durante l'ultimo anno in particolare, anche sulla stampa sono rimbalzate molte voci autorevoli anche di commissari di questi istituti nominati dalla Banca d'Italia, che dicevano: no, state tranquilli, interverrà il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, stiamo studiando delle soluzioni, vedrete che non accadrà nulla. Poi il 22 novembre, a ormai 40 giorni dall'entrata in vigore del bail-in europeo, di punto in bianco, una domenica a mercati e a sportelli chiusi, il governo insieme alla Banca d'Italia decidono di operare questa cosiddetta risoluzione, che in realtà a nostro modo di vedere è stata molto pasticciata, molto tardiva, e ha comportato una sorta di bail-in all'italiana. Qui cosa succede? Succede che molte persone non avevano chiaro non soltanto il livello di rischio al quale erano in realtà sottoposte, ma addirittura potrebbero essersi fidate di dichiarazioni che hanno letto sui media, che hanno letto su internet, secondo le quali le banche sarebbero state salvate comunque senza un coinvolgimento dei loro risparmi. Quindi si creano situazioni di cosiddetta asimmetria informativa. Ci sono delle fattispecie di mancata trasparenza, perché una banca commissariata, ad esempio, non pubblica i bilanci, e queste quattro banche lo erano. Quindi i risparmiatori non avevano un'idea della situazione patrimoniale degli istituti se non quella dell'ultimo bilancio presentato. E in base alle leggi, come a questo decreto, e in base alle norme su bail-in, invece lo stato patrimoniale è estremamente importante, perché se il patrimonio si riduce può essere che un domani i risparmiatori, gli obbligazionisti, vengano chiamati a rimettere in piedi la banca, come è successo in questo caso. Tra l'altro in questo caso è successo prima della scadenza del 1 gennaio 2016, nella quale entrerà in vigore il bail-in. Anche oltretutto la Consob, che dovrebbe vigilare sui titoli diffusi, tra cui le obbligazioni di queste banche, le subordinate, sia quelle quotate che quelle non quotate, esce soltanto 4 giorni dopo il decreto, il 26 di novembre, con una regola che dice a tutte le banche: care banche, adesso dovete informare i vostri obbligazionisti subordinati dei rischi dei loro titoli. E questi signori dicono: beh, 4 giorni fa non si poteva fare questa cosa? C'è qualcuno che ci scrive, dice su WhatsApp, ci scrive un ascoltatore, dice: ma che vergogna, allora pago io con le tasse. Dice: ma che paese è? Questi si sono sbagliati. Voglio farvi sentire, prima di proseguire con Nicola Borzi, vorrei farvi sentire una testimonianza che è stata raccolta dalla nostra Livia Zancaner, che vi dà un po' la misura di quello che è successo. Questo, attenzione, non toglie la responsabilità del fatto che se c'è stato omesso controllo da parte di chi doveva controllare, insipienza o malevolenza da parte delle banche stesse nel piazzare questi titoli, non toglie che un po' di omesso controllo da parte dei risparmiatori c'è stato, insomma. Detto ciò, sentite questa testimonianza. Mio padre è un anziano di 79 anni, invalido, cardiopatico, che ancora non sa nulla di questa cosa. Ecco perché io ieri poi non mi sono fatta riprendere, ho dato soltanto interviste a voce. E cliente di Banca Etruria da 42 anni e aveva affidato i propri risparmi, visto il consolidato rapporto di fidelizzazione con questa banca, era di casa, lui lo conoscevano benissimo, facendo svincolare un altro deposito che era esente da rischi, proponendo queste azioni, queste scusi, obbligazioni subordinate, che si immagini, mio padre ovviamente non sa assolutamente di che cosa si tratta. Io l'ho chiamata una circonvenzione di incapace finanziario, nel senso che era una persona ineducata come tante dal punto di vista finanziario, c'è stata una sorta di forzatura, di una sorta di suggestione, diciamo, in soggetti particolarmente fragili da quel punto di vista, particolarmente incapaci di saper comprendere la realtà dell'atto giuridico e finanziario che andavano a compiere. Quindi mi scusi, lei denuncia, cioè, secondo lei si tratta di un caso di omessa informazione del rischio? Assolutamente sì, quando mio padre aveva quel famoso MiFID, quindi il profilo di rischio basso, era un cliente della banca, nessuno gli ha detto niente, lui poi andava in continuazione, come fanno tutti gli anziani, a chiedere se era tutto a posto e dicevano guarda, non ti preoccupare, stai prendendo questa cedola semestrale di 740 euro che andavano a coprire la sua misera pensione, ma nel 2023 il tuo capitale è assicurato, nessuno, anche un mese fa sono andata io come figlia, essendo poi lui invalido, stai tranquilla, è tutto a posto. Nessuno aveva detto a mio padre a quello che andava incontro, gli unici risparmi di tutta una vita di una persona disabile, invalida. Io adesso faccio la libera professione, non so come aiutarlo, non so come ovviamente dirlo, non glielo posso dire perché anche rischia un infarto. Già nella nostra città c'è stato un suicidio, ma nessuno ne ha parlato. Insomma, Nicola, no? C'è un profilo di questo tipo che probabilmente ha anche è dei profili diffuso. Penali, è molto diffuso anche dei profili più penali. Più che penali, diciamo che in questo caso, come è avvenuto anche in passato da altre banche, in situazioni simili, non esattamente uguali, quando si trattava ad esempio di fare sottoscrivere aumenti di capitale, il cosiddetto profilo di rischio, che è una regola di rispetto alla quale bisogna che le banche si attengano in base alla direttiva europea MiFID, è stato modificato facendo sembrare che questi risparmiatori avessero una tolleranza ai rischi finanziari superiore in realtà di quella che avevano, per poter piazzare loro questo tipo di titoli oppure azioni bancarie oppure altri tipi di strumenti finanziari più rischiosi di quelli a cui questi risparmiatori si sarebbero, come dire, interessati. La situazione è diffusa, è una situazione che parte in molti casi da direttive che vengono date alla rete commerciale delle banche dalle direzioni, ed è una situazione che in passato ha portato anche la Consob a intervenire. Ad esempio, non è un caso che la Consob, nel caso di Veneto Banca, erogò una serie di pesanti sanzioni a tutto il consiglio di amministrazione dell'istituto anni fa, proprio perché per piazzare un aumento di capitale venivano scientificamente modificati i profili di rischio dei clienti, anche di quelli che non hanno una tolleranza al rischio alta. Allora, cosa succede? Succede che adesso però c'è in giro molta gente che si propone questi risparmiatori truffati, presentandosi come avvocato, come esperto, e propone tutta una serie di iniziative legali. A qualcuno addirittura parla di class action, quando sappiamo che la class action in Italia su queste materie non è praticamente ammissibile. Bisogna fare molta attenzione, perché prima di rincorrere soluzioni abborracciate che vengono proposte ovviamente dietro la corresponsione di parcelle e altri soldi, bisogna aver chiaro se si è nella condizione di poter proporre delle cause legali. Come abbiamo scritto anche su Plus 24 sabato scorso, una via iniziale per chiedere il ristoro dei danni sta all'interno del cosiddetto ombudsman bancario, cioè di tutti quegli organismi di compensazione alternativa delle liti che devono essere sentiti prima di pensare di andare direttamente dal magistrato. Oltretutto poi bisognerà vedere se ci saranno le possibilità di aprire fronti, iniziative legali nei confronti non soltanto dei commissari di queste banche che le hanno gestite fino al 22 di novembre, ma anche nei confronti delle autorità di vigilanza come la Banca Italia e la Consob, che non hanno in qualche modo o potrebbero non avere in qualche modo reso noto al pubblico la situazione di decozione degli istituti. Ti ringrazio, grazie a Nicola Borzi di Plus 24, tutti i dettagli ovviamente voi continuerete a seguire la vicenda così come la farà il Sole 24 Ore e Plus 24 in edicola tutti i sabati. vedo molti sms sul tema, questo è il grande tema, è la responsabilità del singolo risparmiatore rispetto a quello che è successo. Vediamo che però le scottature non servono molto, evidentemente. E lo sappiamo, come ci ha detto anche Nicola Borzi, che vengono... ci sono dei titoli che vengono spinti direttamente dalle direzioni delle banche e gli sportellisti quasi costretti a venderli. Questo non giustifica il non informarsi, che resta un elemento fondamentale, è una raccomandazione che facciamo, perché poi lo vedete come va a finire. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di borse e poi chiuderemo parlando di Venezuela. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Molti sms, molti messaggi su WhatsApp, ancora sul tema delle banche, molti di voi che ci scrivono: non ho intenzione di pagare io con le mie tasse per dei risparmiatori che si sono fatti fregare. Altri che dicono, insomma, quando prendevano le cedole al 6%, tutto bene, no? Imparare a collegare l'alto rendimento con l'alto rischio, lo diciamo da anni anche da questi microfoni, e questo è un messaggio che fatica a passare. Siamo ai mercati, a come stanno andando le borse oggi. Allora, Milano ha chiuso la fine in positivo, anche se marginalmente, più 0,07% sul FTSE MIB, più 0,11% sul FTSE All Share. Parigi meglio, più 0,88%, Francoforte più 1,25%, nonostante l'America vada male, col Dow Jones che cede lo 0,87%, lo Standard & Poor's lo 0,91%. Vincenzo Longo, market strategist di IG Market Italia, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Una serata, una giornata guidata dal prezzo del greggio, mi sembra. Assolutamente sì, la seduta è stata, diciamo, ha preso una brutta piega soprattutto nel pomeriggio, quando il petrolio ha ripreso a scendere in maniera abbastanza violenta su alcuni contratti future, soprattutto il Brent. Siamo arrivati ai minimi da febbraio del 2009, toccando $41 per barile. È un pochino peggio il WTI, ovvero il petrolio scambiato sulle piattaforme texane, che ha chiuso in questo momento, insomma, intorno all'area dei $38 al barile. Il petrolio che condiziona in particolar modo Milano e soprattutto Eni, che è uno dei titoli che ha una ponderazione maggiore in questo momento sulla listino principale milanese, quindi Milano ne esce quasi sconfitta. Sì. In una seduta che ha visto in realtà gli altri indici europei registrare abbastanza, delle performance, esatto, abbastanza brillanti. Esatto, come si dice, abbastanza brillanti. Eni meno 2,46%, Saipem meno 2,32%, Tenaris meno 2,22%, siamo sempre nell'area più o meno dei petroliferi. E il titolo peggiore in realtà sul listino principale è Monte dei Paschi, che lascia sul terreno un 2,8%, e negativi complessivamente i bancari oggi, no? Sì, sostanzialmente sì, il comparto popolare in particolar modo, e poi le due banche più in difficoltà in questo momento, anzi nell'ultimo anno, che sono Banca Montepaschi di Siena e Carige. Entrambe hanno registrato sul finire di seduta i nuovi minimi storici, una performance abbastanza debole, un po' preannunciata forse dai cali visti già sul finire della scorsa settimana tra giovedì e venerdì, dato che, diciamo, più dal punto di vista tecnico, questi titoli avevano rotto i minimi storici precedenti e da qui le vendite appunto dilagano. Questo lascia presagire anche che il futuro di questi due titoli sarà ancora sotto pressione per un po', perché il segnale è abbastanza forte. Positivo il comparto dell'uso nel complesso, più 2,87% Ferragamo, Luxottica più 1,85%, Moncler più 1,27%, e bene ha fatto oggi Telecom Italia, più 2,14%, cosa ci dice? Ma Telecom Italia rimane sicuramente la storia più speculativa del momento sul listino milanese e gli operatori lo sanno. Il titolo ha dato seguito a delle buone, ottime performance nel corso degli ultimi due mesi, arrivando più volte alla soglia di 1,30 e poi ritornando un pochino indietro. Rimane sicuramente la storia speculativa anche per il 2016, i temi di corporate governance che riguardano lo scontro tra gli azionisti principali alimentano una certa speculazione e porta un appeal speculativo talmente forte che potrebbe appunto essere la vera star forse del listino milanese nel corso del 2016. È emblematico che ogni volta che il titolo tenta di correggere si ferma sempre su dei livelli abbastanza interessanti da cui poi le vendite vengono sostituite degli acquisti, quindi siamo decisamente positivi sul titolo. Bene, anche Campari più 2,7, Buzzi Unicem più 2,3, Azimut più 2,01, Luxottica più 1,85, Fiat Chrysler più 1,7, Anima più 1,5, così come Finmeccanica, Exor più 1,3, Atlantia più 1,3, Moncler più 1,27 come si diceva, Generali più 0,92, nel Green Power mezzo punto percentuale di guadagno così come Terna, Enel più 0,3 così come Unipol, Unipol Sai più 0,2%, Italcementi altrettanto, poco sopra la parità Unicredit a 2A, Jux Net-a-Porter, Intesa San Paolo, Tod's, Prismian e UbiBanca che chiude in perfetto pareggio, e poi gli altri titoli, quelli particolarmente negativi, ve li abbiamo dati grazie a Vincenzo Longo, market strategist di IG Market Italia. Il traffico e poi parliamo del Venezuela. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Ancora molti messaggi sul tema delle banche salvate, qualcuno anche con rabbia dice non voglio pagare nemmeno un euro per chi si è fatto fregare. Chi dice farei rimborsare gli obbligazionisti prendendo i soldi ai vari dirigenti delle banche, nonché a Consob e Banca d'Italia. Rendimento alto, ci chiede un ascoltatore, a quanto alto bisogna essere sospettosi? Sinceramente non lo sappiamo esattamente. Certo, un rendimento del 6% in questo momento con i tassi così è un pochino troppo, ecco. Passiamo a parlare di Venezuela, va, tra l'altro è probabilmente la giornata giusta perché abbiamo il petrolio che arriva a $38 al barile, a 38,2 per essere esatti, un calo del 4,5% come si diceva per il WTI, quello quotato a New York, anzi del 5%, anzi è sceso adesso sotto i $38 al barile, a 37,93, giù del 5% quello con consegna a gennaio. L'opposizione contro anti-chavista, MUD, la tavola dell'unità democratica in Venezuela, ha vinto le elezioni legislative conquistando 99 dei 160 seggi dell'Assemblea nazionale contro i 46 del partito chavista, appunto. Un paese che per il 98% delle sue esportazioni, il 98% delle sue esportazioni sono petrolio e che ha un break-even che varia, insomma, cioè un punto di pareggio, diciamo così, fiscale per tenere in piedi il sistema e anche i sistemi di welfare intorno ai 110, $117 al barile, 120, insomma, variano le valutazioni qua. Antonella Mori, economista all'Università Bocconi, è ricercatrice presso l'ISLA, l'Istituto di Studi Latinoamericani e dell'Economia in Transizione, è docente anche di macroeconomia presso l'Istituto Studi di Politica Internazionale. Buonasera Mori e benvenuta. Buonasera a voi. L'economia venezuelana ha mostrato il passo. Quanto dipende dal petrolio e quanto dipende dalle politiche del governo? Allora, tutti e due i fattori sono naturalmente importanti perché dipende attualmente completamente dal petrolio e questo per in realtà di politica economica in passato. quando il prezzo del petrolio era molto alto, comunque il governo non ha cercato di diversificare l'economia e di riuscire ad avere anche una base manifatturiera. Il paese è in ginocchio anche perché deve importare praticamente tutto e quindi a questo punto non ha risorse per importare, e perché col prezzo del petrolio è così basso, non ha risorse da spendere per i programmi di welfare che sono molto, molto generosi, e quindi si stima che quest'anno il prodotto interno lordo possa contrarsi del 10%, l'inflazione è intorno al 150%, e un paese che è decisamente, decisamente in ginocchio. Un paese in ginocchio e appunto sull'orlo del collasso, senza contare che se non erro, professoressa, il Venezuela teoricamente ha riserve petrolifere superiori anche a quelle dell'Arabia Saudita. Sì, si stima che il Venezuela abbia le riserve petrolifere più grandi al mondo. Però non ha fatto investimenti negli ultimi anni, quindi comunque sono riserve e sicuramente in questo momento non ha né i soldi pubblici, diciamo, per poter investire. La società petrolifera è una società statale, naturalmente, la PDVSA, e tantomeno ci sono risorse di società straniere che in questo momento, o diciamo nel passato, erano desiderose di investire in Venezuela. Chiaramente potrebbe cambiare la situazione con questo risultato, insomma, elettorale, qualche cosa dovrà cambiare nel paese. Senta, è un paese sostanzialmente vicino al default vero e proprio? No, beh, il Venezuela non è un, diciamo, è un paese debitore, è un paese debitore, è un paese debitore, no? No, il Venezuela non ha un problema di debito estero, il problema è proprio un default sociale. Il paese, infatti, appunto, qualcuno l'ha chiamato già un paese che è in default sociale, nel senso che non riesce a garantire ai propri cittadini un livello di consumo veramente adeguato per il livello del paese, per il livello della ricchezza che ha il paese. Questo è il default di cui si parla, ma non un default di debito. Senta, allora, con il petrolio che ci aspettiamo che rimanga così a lungo a tutti gli effetti, perché l'Arabia Saudita a quanto pare al momento almeno ha tutto l'interesse a mantenere il petrolio a questi livelli, quando ci sono le riunioni dell'OPEC, come dire, non si muove foglia. Vorrei capire quali sono a questo punto le prospettive del paese, perché lei ci diceva, insomma, bisogna vedere che cosa faranno gli anti-chavisti arrivati per il momento in Parlamento ma non alla presidenza, lo ricordiamo, perché anche questo è un elemento interessante. Vorrei capire quali possono essere le prospettive. Beh, allora, teniamo conto che per numerosi anni gli investimenti sono stati bassissimi, in questo paese gli investimenti fissi, molto bassi, e questo, un cambiamento del clima generale nel paese un po' più aperto agli investimenti, potrebbe attirare soldi nel paese, perché comunque il paese è ricchissimo potenzialmente. Quindi questo, io penso che una delle cose importanti sarà dare un po' più di stabilità, dare un po' più di certezza delle regole, che potrebbe anche aprirsi una fase di dialogo. Sembra un po' assurdo parlare adesso di dialogo tra l'opposizione e il presidente, per il fatto che durante la campagna elettorale naturalmente i toni non erano certo concilianti, però è anche vero che questa vittoria è stata talmente, per l'opposizione, è stata talmente forte che secondo me ha sorpreso anche la stessa opposizione. E d'altra parte il sostegno a Chavez, non a Maduro, questo è chiaramente un segnale per Maduro, ma il sostegno a Chavez è stato fortissimo per 16 anni. E quindi il sostegno, diciamo, al modello di Chavez, e devono trovare un modo per, nel breve periodo almeno, per dialogare, e questo potrebbe creare un ambiente più favorevole agli investimenti, e poi potrebbe essere effettivamente una molla per fare, una molla positiva. Perché il paese cambia. Sono d'accordo con lei. Sì. Il Venezuela infatti è stato l'unico paese nella riunione dell'OPEC a chiedere restrizioni di produzione. Professoressa, io la ringrazio ma devo chiudere. Antonella Mori, economista all'Università Bocconi, ricercatore presso l'ISLA, Istituto di Studi Latinoamericani dell'Economia in Transizione. Non abbiamo avuto spazio per parlare anche di Brasile e Argentina, mi avrebbe fatto piacere. Chiudiamo qua, grazie Roberta Frisani in regia, Mauro D'Alcor, Mauro del Corno, Barbara Bianchi in redazione, a tutti voi per l'ascolto, una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.